Gianni, non mi ascolti? Attenzione Gianni. C'è qualcuno su 10? C'è qualcuno sul 10, Brecco? Attenzione 10, Brecco. Ora 1, 2, 3, prova, cambio. Ora, ora, ora. C'è qualcuno qua sul 10? Attento Luca, manicomio. uscendo male, tutto pieno di rumori. Chi è? Buongiorno, giù, vabbè. Ciao, qua. Cosa c'è, me lo vendi? No, veramente non ci sono andato. No, non mi sento bene di nuovo. Fa male un bello stomaco, la schiena. Un periodo così, lei cosa ci vuoi fare? Bisogna sopportare. Intanto mi vengono, infatti dovevo sbrigarmi alcune cosette, è un ufficio, però non c'è problema. Devo salire anche sul tetto, mi sto preparando la qualificazione per spostarmi la Mantova, ma c'è un po' di venticello, poi non ne ho voglia, ho trovato, fa male la schiena. Allora mi sono messo qua, in radio, mi ho spostato un po' di roba, messo a posto, ma stasera arriva la scrivania per il computer, il portacomputer, ce lo metto sull'altro lato, così ogni cosa al suo posto. Va bene così. Va bene. Come mai vuoi spostare l'antenna da un punto all'altro? Perché l'avevo spostata nell'altro punto praticamente, dove il tetto non è il mio, perché con la direttiva grande, la tre elementi grande, che adesso ho smontato praticamente, cioè abbassato, l'ho smontata per manutenzione, però non la piatto più, e sull'altro lato, capito, non è il tetto mio, ma la metto dalla parte mia, e così recupero anche un 15 metri di cavo. È buono. 15 metri c'è un po' di distorsione, ma comunque non è quello il problema, tanto il segnale già ne hai tu, dunque non sarebbe quello il problema. Vabbè, quello sì, se devi spostarlo, prima l'avevi vista, perché quando girava l'antenna avrebbe toccato sul davanti, vero? Esatto, avrebbe fatto danno, a parte che non girava, quindi ho detto la metto lì, ma non mi hanno mai detto niente, assolutamente, per carità. Però voglio mettere la roba mia, la voglio mettere dalla mia parte, nel tetto praticamente della mansarda mia, mentre invece adesso nel tetto della mansarda degli altri, quindi non voglio avere problemi, anche perché recupero un po' di cavo, quindi è sempre meglio, capito? E vado a collegarmi direttamente con 4 metri di spezzone al commutatore della Meritron, dove era collegata prima, quindi sempre unico cavo di discesa, invece così sono due cavi di discesa, uno per la Mantova e uno per le direttive, invece vado a collegarmi direttamente su quello delle direttive, che è una Camilla, capito? Ho capito, tanto poi tu hai un commutatore coassiale, che va bene così, non è praticamente questo pezzo di 15 metri, sarebbe anche uno strecco se vogliamo, e recuperi anche un po' di segnale, un po' di meno mondezza, per così dire. E non è come sta entrando la... Sì, vado a collegarmi sulla centralina praticamente del commutatore elettronico che c'ho su, capito? E vado a scendere col cavo unico che scende per tutte le radio, mentre quello invece è un cavo in più, perché io ce ne ho sempre uno in più, ed è un 213, quindi vado a scendere con la Camilla e vado a collegarmi con lo spezzone dall'antenna alla centralina del commutatore con 5-6 metri di cavo. In quel modo lì ce ne sono più di 15 sicuramente, perché nella punta dall'altra parte tutto il palazzo sono quasi 30 metri, cioè lungo 30 metri e largo 20, perciò capito mio? Va bene, però ti ripeto, devo fare oggi, infatti mi avevo già preparato tutto, stamattina mi sono alzato con questo dolore, sono andato a ritirare un po' di fax in ufficio via di San Francesco, ho fatto un po' di commissioni e poi me ne sono tornato a casa, perché non è giù gana di stare sul tetto, già lo faccio, in settimana lo farò, non so, sabato, domenica, vediamo, appena mi passa questo dolore. Va bene, e tu, non sei uscito? No, esco lunedì, adesso esco lunedì, che vado a fare il controllo, e intanto dove vado? Ui, intanto quando vai non ti puoi avvicinare a nessuno, per cui tanto male rimanersene a casa, no? Penso proprio di sì, ma fammi io, fatti ciò, il baracchino acceso, questo, il Cobra, sempre col solito microfono, gli altri sono tutti accesi ma sono a volume basso, giusto per farle scaldare. E qua mi stavo preparando un po' di spazio, per preparato già i cavi per i collegamenti del computer e tutto, perché alle 3 vado a ritirarmi la scrivania, la base per il computer, e lo sposto sull'altro lato, sotto la TV. E non c'è il vento forte, però è un venticello un po' fastidioso per fare questi lavori, capito? Perché io devo abbassare il tubo, sganciare la lamantova intera così com'è, portarmela sull'altro angolo e basta, non devo fare altro. Oh Claudio, buongiorno. Buongiorno, chi è? California, aspetta, ciao Claudio, una cortesia, me lo puoi dare un controllo? Sto pilotando il 680, vedo come ci sto arrivando. 9.10 Frassi, 9.10 Radio 5, prova a chiedere a Giulio che è più distante magari. Ma volevo sapere se, perché c'è il processore inserito, volevo sapere se sta spingendo come radio. Sì che sta spingendo, va bene, va bene. Giulio, lo senti a Franco? Sì, sì, lo sento, c'è anche una sovrabbondazione di preparatori. Ciao Fra, sentiamo 6:30, modulate 7, la radio comunque buona. Sì, vabbè, se lui da quella posizione non è, ma rimane basso il segnale. Però la radio è l'ultima, a differenza di qualcuno che arriva con segnale basso e senza radio, senza fare numi. Va bene, grazie Giulio, grazie Claudio, 59 più 20, qua sì, e Giulio 59. Va bene, le mie condizioni sono ancora molto negative a forse per Giulio. Claudio, comunque ti ascolto bene, dai. No, stavo provando il 680 col processore inserito e appunto volevo sapere se la radio era pulita, se era tranquilla. Pulita e tranquilla, fra sì, beh, sei più favorevole a me, sei anche più vicino, quindi. Però se arrivi anche a lui così già va bene. Ti ricordo, io sono col baracchino, col Cobra, però il segnale è reale, 9 più 10. 9 più 10 pieno. Va bene Fra, siamo qua. E Claudio, guarda te, me la devo fissare con un pallone passante, perché altrimenti il vento me la rigira, capito? Il vento ne va di danni. Siamo tolto in fretta la direttiva, io me la stavo distruggendo. Meno male che l'ho tolta in fretta. Sennò guai, non ne bongo mai più, lascio solo quella 5 elementi e la monobanda alle 10, il resto è tutto filare. Boh, finito. Oggi diciamo che ti va ragione senza dormire a notte, vai Giulio. Ok. Beh, in effetti è vero mio Fra, il vento te la gira, anche se stringi forte i bulloni, nonostante che siano stretti forte a forza di vibrare, si muove. Io mi ricordo che avevo la parabola a tante vitale anche attaccata in quel tubo e me la girava il vento, perché nonostante che stringevo i bulloni fortissimo, allora cosa ho fatto? Dalla zappa che è murata avevo bucato la zappa direttamente col tubo e ci avevo messo una vite dentro. Boh, da quel momento non si è girato più il tubo, perché mi girava, tutto il tubo mi girava qua. Ecco, volevo ti volevo chiedere, io adesso l'ho messo a puntato a 50, i watt, puntati 50 e se ne va a 100. No, va bene, ma ne stai dando anche troppo Fra, dagliene 20, 30, capito, visto che sei in condizioni precarie, 20, 30, lavora meglio la radio, e magari c'hai picchi di modulazione anche più alti, capito? E la basso qua, un attimo il basso, aspetta, le scorte sono troppo alti, infatti. Claudia, così meglio qua? Sì, è abbassata appena, 9,5, va bene Fra, e alla grande. Adesso c'è il processore inserito e così sono senza processore, com'è? No, così sei col processore. Così sei col processore, prima eri senza processore, Giulio. Sì, è col processore adesso, perché la radio adesso è proprio bella amplificata. Sì, va bene, non c'è problema, va bene anche così, alla grande. Si è abbassato un pochino di segnale, ma niente di particolare. Però la radio ha acquistato anche picchi positivi, dunque, per cui quello che hai perso in segnale l'hai acquistato in radio. Sì, capo. Io l'ho preso fra le trascrizioni quando è inserito, con il servizio invece deve essere le strutture in più fatte, anche una volta non lo so, questo 680. E tanto il 680 tu ho preso lì fra. Ormai sono tutti i rimedi di radiovigilanza, Sassari, sempre qua sono passate prima. No, fra, per essere inserito deve andare in dentro, disinserito in fuori. Quindi quando l'hai inserito tu, allora stava andando di più la radio, capito? Lasciala così che già va bene. Allora, così c'è il processore fuori. Così c'è il processore dentro. È stato il contrario, c'è la radio, come ti mai? Boh. Giù è bassa Franco, no fra, inserito è acceso il processore, in fuori, quando è in fuori è disinserito, e tutte così sono i K, a chi la do io al contrario, oggi ho preso. Ma quando me non lo vedete che c'è un questio? Un questio qua c'è gente che sta parlando, voi vi mettete con questi cazzo di eco a rompere le balle. Buh, no, una cosa assurda, una maleducazione che ci avete che non viene bene a dirlo, che allucinante, vai Giulio. Ma a me questo fatto dell'eco mi fa solo ridere. Hanno buttato un sacco di soldi, vabbè i soldi sono di loro, non me ne frega niente questo. Però è una vergogna questo eco, ma di chi fuma? E tanto che rovina la modulazione. E poi non riesco a capire come mai preferiscono questa radio fatta così, in questo modo, con tutti questi rumori che arrivano da lontano, da Bianco, da Ruggero, da tutte le parti. Ma quando mai non vedo la radio tranquilla, singola, è dalla voce umana, senza tutti questi sofisticamenti che ci fanno? Boh, vabbè, comunque, saremo di fatto noi peggio. Avanti, fra. Ah, vai a boi, va due Baltimora. Riprendi, fra. Attenta la Herona, attenta la Herona. Il clac sta lucendo, adesso non si dice altro che ciò. Inserito, così va benissimo, no, non toccare niente. Va bene alla grande, fra, ok? Ehi, ehi, lascia così e fregatene, vai, non c'è problema. Avanti Giulio, guarda io ce l'ho, questo baracchino qua, il Cobra, c'ha tutto, c'ha anche l'eco, ma non me ne affutti nulla, io ho messo il microfono normale, l'eco è chiuso, non me ne affutti proprio nulla, è nato di bottenza, baisce e bidalli a tutti quanti, ma non serve proprio a niente questa cosa dell'eco. Serve a rovinare la radio, non so cosa serve a quello, boh, io non so questa mania che hanno con questo tipo di radio che vogliono mandare in aria, boh, non riesco a capire, questa provocazione mi sta coprendo a Franco. Questo qui a Bosi chiamano Maradona, oltre i nove di segnale, mi stava coprendo Franco. Franco, avanti. E lascialo mettere a posto, vai, sta controllando questa radio. Sì, sì, a me mi arriva un po' più forte di te, se no me lo copro. Mi arriva di nuovo il burano e Ghitto. Infatti, poi questo modo di impostarsi quando parla, ma che sistemi sono? Ma non dai il capo e basta. No, devono allungare la parola all'infinito. Non riesco a capire. Ma cosa credo? Voglio rimanere più forte così. O ti faccio sentire di più. Ma devi andare di schifo. Il moto del fruttivendolo, cosa vuoi fare? Da se arriva, io infatti non ci vado mai, l'ho tolto, ma l'ho addirittura venduto il baracchino che avevo comprato da Gigi Vulcano. Me l'ho venduto a un camionista, perché non mi interessa andare 45, io se vado alle 45 parlo così come sto parlando adesso. Siccome manco di vado in entrata, capito? Manco di vado in entrata, qui scico la radio normale, allora preferisco starmene qua nel 10, tutto qua. Sì, 45 è un canale che io non ci passo quasi mai, difficilmente vado su 45, tanto lo so, è il casino che c'è, dunque non è il caso di soffermarsi. si dice, oh, i bella PD, poi parlano tutti quanti con gli ignaroni da 2000 watt, caspita, e che camionisti, per carità, oh, i per carità. Vabbè, sono scelte, il camionista è camionista, ma quando lo usi la casa, quel baracchino lì non fa. Io ci ho provato mille volte, non sono mai riuscito a tenerlo perché non fa. Assolutamente, poi è una passione che hanno un po' tutti, io la condivido, ma non mi interessa, capito? Tutto qua, Giulio, sono delle scelte, a chi piace è giusto che lo faccia, a me non mi interessa e non lo faccio. Franco, vuoi riprendere? Ma sta parlando Franco? No. No, ha messo quel bollone nell'antenna, l'ho fissata praticamente con un bollone passante. Aspetta che rispondo al telefono, Giulietto. Ok, d'accordo. E infatti col bullone passante fra non te la gira più l'antenna, col bullone passante non è possibile girarla, assolutamente. E non c'è bisogno nemmeno di stringere forte i bulloni. Perché ripeto, come ti ho detto poc'anzi, io avevo bucato la zappa e anche il tubo e ci avevo infilato, anzi ti dirò di più, non era nemmeno una vite, come stavo bucando si era spezzata la punta, la punta era 4 mm, è rimasta dentro, è rimasta, non l'ha più girata dentro, non ce la può fare girando. No, ma infatti me l'ha fatto passare il bollone, così non me la gira più, capito? La radio è sempre buona? Sì, si capisce, c'è il QRM, capito, c'è propagazione, dunque arriva un po' confusa, però già arriva bene, no? Non c'è problema. Sono qua, stavo rispondendo a mio cognato, dovevo dire cosa di lavoro. Fra, lascia stare tutto così che va bene. Infatti adesso non ci 60 il processore finito. Spero che non era per levare più di soltanto di grazie, lo so che sono in ciclo qua. Oh, ma aspetta che passo col capo a vedere il segnale reale, se c'è differenza da questo. Capo. Ma è fra, qui il segnale si è abbassato, quando è abbassato la potenza si è abbassato anche un po' il segnale. Mi sta arrivando Santiago 5, però c'è la propagazione che arriva anche a 9, 9, 5, per cui in certi momenti non ce la faccio ad ascoltare perché c'è la propagazione troppo alta. E faccio ancora aumentare giù, però la lascio così. No, fa, è giusto il segnale, dai, sta arrivando 9,5 sul baracchino, sul Cobra, e 9,5 sta arrivando qua sul 440, va bene. L'ho detto, faccio aumentare, adesso sto pilotando, con 10 mi arriva più a 20, però lo posso portare a 50, solo che non mi fido io per tant'è. Io mi lasciavo stare così a fottiditi, mi prendi giù. Ok. Sì, ripeto, c'è molta propagazione, si sta aprendo molto la propagazione, ma c'è il QRM che sta salendo e dunque a questo punto un pochino ti chiude, ma non ti capisco lo stesso quello che dici, la radio già passa, Dicendo fra quei capi del tempo, quindi a 8 punte, io gli ho fatto due di quelli, capito? Cosa vuoi sapere dei cavi a 8 punte o Franco? Ma col capo ti interessa? Li ho già fatti. Io li ho fatti la domicilia, ho fatto pilotare anche la MD più 4 sul 680 e la posso togliere e mettere su un'altra parete, capito? Sì, io l'ho fatto lo stesso, sulla radio che mi hai dato tu, io ho messo l'MBT4 e naturalmente utilizzando solo 4 fili, perché bisogna fare attenzione alla corrente che c'è, alla tensione che c'è sul polo, sul pin numero 4 mi sembra, se ricordo bene, che ci sono gli 8 volt, attento a non fare il cortocircuito lì, se no ti frega. E devo dire che il MBT4 va meglio addirittura di questo microfono che sto usando adesso, è una radio migliore, dai, perlomeno così mi hanno detto. Vai fra. Gatta, però io l'MBT4, adesso non ne ho un altro, e vi faccio una modifica che posso prendere addirittura la via contro l'alimentazione direttamente dalla parete, capito? E ci posso fare addirittura anche le pull down nell'MBT4, perché mi metto dei pulsantini, siamo semi-elettrico, è la cosa fare, capito? Sì, allora bisogna accavallare. No, io non ho fatto quello, no. Quello non mi è interessato. Io addirittura sto usando, cioè quando non adesso, adesso in questo momento ho il 60, però quando metto l'MB+4 è alimentato dalla batteria sua, non direttamente dalla corrente della radio, no? No, quello io non l'ho fatto, ho fatto lo stretore, e l'ho collegato allo spiralato del microfono, no? Tramite questi nuti e vado così tranquillamente, funziona molto bene. E praticamente è fatto i quattro fili. I quattro fili che danno uno dalla, come l'ho fatto io l'ho fatto, là. Che poi collegato lo puoi staccare dal 440 e lo puoi attaccare anche sul baracchino. Anche io ne ho fatto un modico di struttura, se li ho capito. Allora ci vuol dire, c'è lo schema addirittura del 180, che i collegamenti della schema del 180 sono vari ai collegamenti degli istituti, uguale a quello del 440, non cambia niente, perché 680, 440, 4 e 50 sono tutti uguali, capito? Sì, lo so, tutti i collegamenti del cavo sono così, è vero, e per cui al limite uno se vuole lo può usare in una radio o nell'altra, lo stesso microfono, certo, ma è così. No, io l'ho fatto così per gusto, ma l'avevo fatto già da un anno e mezzo, due anni fa, solo che in questi giorni l'ho tratto fuori e lo sto anche utilizzando, ma non in questo momento, in questo momento sto usando il 60, sto usando. E adesso nel prossimo passaggio ti faccio sentire anche del MB4, intanto ce l'ho qua davanti, lo faccio altro per staccare uno spilotto e mettere l'altro, per cui va bene così. Avanti qua. Vabbè, io adesso sto utilizzando l'MC60, capito? Va bene, lascialo stare, va bene. E Giulio, stesso discorso di ieri, no. Io ti sento molto, molto, molto più presente, con una timbrica veramente tua con l'MB+4. L'MC60 è bella, però è troppo dispersa la modulazione, capito? Quella là è proprio piena, puoi gridare quanto vuoi, no, non succede niente. Invece con quello lì, se gridi, va in distorsione. È molto bella quella tua dello ZG microfono, capito? Quindi io ti consiglio di lasciare quello. So che esteticamente è più brutto, però a me non me ne fotte nulla. Quando un microfono va bene, io lo uso. Quindi per me vai molto meglio con l'MB+4 che con, o più 5 che sia, che con l'MC60, Giulio, vai. No, l'MB+4 è questa che sto usando adesso. Questo è fra l'MB+4 sul 440, per cui avrai notato un po' di differenza, ma devo dire di più, addirittura avevo fatto, Franco, uno stessone anche per l'M300, ti puoi immaginare, l'M300 ho anche adattato e va bene ugualmente, non è come l'MB+4, però anche l'M300 va bene su questa radio. Vai fra. Gappa. Vabbè, certo non sì. Adesso io lo provo, faccio l'MC60 e provo l'MB+4 e vedo un po' la differenza. Va bene, prova. Avanti qua. Ehi, siamo qua. No, questa è più bella, a me piace di più. Come linea di voce, come qualità di voce ti si addice molto, molto di più. Quella là è più corposa, ma è molto più confusa. Questa è veramente molto bella, molto chiara. Io ti consiglio di usare questo, te l'ho già detto, ne abbiamo già parlato ieri. Ti si addice di più questo, il più 4 rispetto al 60, Giulio. Vai bene anche col 60, però questo è più, come qualità è molto più bella. Sì, quello sì, evidentemente, perché il MB+4 ha dei toni bassi anche, possiede anche dei toni bassi, e io avendo solamente nella voce toni alti e mi mancano i toni bassi, e ecco che recupero un po' di toni bassi con questo tipo di microfono che mi si addice di più alla mia voce. mentre invece il 60 ha più toni alti, per cui avendo toni alti io, toni alti il microfono, ecco che ci può essere sicuramente della differenza anche notevole. Vediamo se Franco ha cambiato. Franco? Sì, esatto, guarda questa modulazione, avanti Franco, di nuovo, perché c'era una sovrammodulazione della preparazione, c'era, ripeti. Guarda questa la modulazione, dove se vuole non si scambia di più con questo. Sì, la sento, è fortissima, però non è pulita, forse deve abbassare, non lo so, vero qua? Aspetta un attimo. Accidente, una preparazione, quanto è fastidiosa, tante volte, quando facciamo questo locale, la preparazione è proprio fastidiosa, veramente, perché ti si sovrappongono, è una cosa impressionante, se ti segnalo unica, che sa niente, boh, vabbè, comunque, anche loro hanno il diritto di parlare su tutti i canali che vogliono. Ripeti Frank, la propagazione c'era in questo momento e sta dando fastidio. Tranquillo, tranquillo che la fa. Sì, scusate che io ogni tanto devo rispondere al telefono, perché sono un po' impegnato. Sì, fra, però è troppo forte come radio, mi sembra. No Giulio, mi sembra che era troppo alta, troppo confusa. E infatti gliel'ho detto di provare a abbassare, perché la radio praticamente era quasi, senza quasi, con una specie di strappola. Franco, ripeti. Aspetta. Attento collega, ci ascolti la Sardegna? Te copio Italia. Anch'io ti copio, ti saluto, però ci sono troppe sovrammodulazioni. Grazie per il contatto, ma qua questione locale. Avanti qua. E noi copiamo tutti, copiamo. Ci accoppiamo anche a volte, però questa volta accoppiamo solo. Ciao, buongiorno. Avanti Franco. Che me va a cazzo gioca, ma fanno io. Ti arriva il segnalone, la buona cosa impressionante. Ma quanti fatti usano questa gente? Sì, si ci hanno il baracchino modificato. Uscino in data è arrivato. Un bene anno. Ce n'è finito a 700, 800, 500. Ehi, ho voglia. Lo so. E vabbè. No, quella è una meraviglia, sai così? Magari un baracchino da 200 euro, poi magari te ne spendono 300, 350 per fare le modifiche. È un baracchino modificato buono, lo paghi meno di 400 euro, Giulio. A volte anche 500, io mi ricordo, era un 48 modificato che avevo preso da Gigi, 400 euro, addirittura quello che ha preso Gianni, doppio rumo, è 450, quindi però pazzie, li fai una volta, da voi non li fai più, non è che si possono, perlomeno io non ne faccio più. Io se devo comprare una cosa di quel valore preferisco comprarmi un HF, preferisco comprarmi una cosa più seria, quindi qualche soldino speso in radio vintage, però sono cose che mi piacciono, normali, baracchini normali, i microfoni che mi piacciono, ma spendere soldi così in una radio che poi io personalmente non uso, non posso neanche usare, capito, per la posizione in cui mi trovo, quindi non è inutile prenderlo e tenerlo dentro l'armadio come ce l'avevo. Io ne ho avuto due e uno l'ho venduto a un camionista, uno ce l'ha Gianni Dischetto, quello che entra ogni tanto con noi i produttori, e l'altro ce l'ha Valerio, non ne uso io, non ne uso perché non ne posso usare. No, non è il caso nemmeno, no, a me di queste idee non me ne vengono, ma ti sembra che butti i soldi per farmi le modifiche su un baracchino magari da 150 euro, non va nemmeno per idea, non ci penso proprio, figurati, non ci penso proprio, la preferenza come hai detto tu me ne compro una sedia di radio e basta, almeno so che una radio come si deve, ma prendere un baracchino anch'io, eppure vado a modificare spendendo 400 euro, ma guarda, non ha senso, non serve a niente, non serve a niente. E poi tra l'altro io sono anche contrario a quel tipo di modulazione, vabbè, ognuno fa quello che crede, ci mancherebbe altro, quello sì, e io lo ascolto ugualmente, però se devo essere sincero, a me mi piace la radio normale, senza stare lì con tutti i grandi elicotteri e aeroplani e satelliti che volano per aria, no, va bene così, va bene la radio normale, così almeno sei tranquillo, senza farti sordo, è inutile stare lì, magari c'è uno che arriva basso, hai le cuffie, arriva quello sparato e ti spacca a timpani, no, assolutamente qua. Sì, lo so, è una scelta, noi abbiamo delle idee diverse, però è una scelta, quando uno lo prende è per divertirsi, vedi, ma ci vediamo, io lo conosco la vita con questa passione delle radio così modificate, c'ha la radio seria per fare questione e poi vai, si diverte nel canale 45, ma è forse uno dei pochi rompiscatole, nel senso che quando fa questione anche con quelli non li usa, ecco, li usa normale, ma bisottetti che entra, fa questione, la gente giù quando è da poco in un canale prendi questo all'ordine di notte un chicco, ecco, ma cioè io ho le cuffie, così non va bene, devi toglierlo e fare questo locale. Infatti Massimiliano sì, ha quella passione, d'accordo, tutto quello che vuoi e lo può fare, e intanto perché studi sono sui, la radio sua e ne fa quello che vuole, certo, però devo dire che lo sa anche usare, nel senso che lui quando ce l'ha a fare questo locale, vedi che c'è abitudini, non le fa, va a fare combattimento sul canale 45 insieme agli altri che hanno la stessa radio con lo stesso tipo di modulazione eccetera, e va bene così, ecco, finché uno lo utilizza così ben venga, ci mancherebbe altro, chi è che gli impedisce di non farlo, però appunto quello che dico io è questo, tu ti vuoi fare una radio fatta in questo modo, parla tranquillamente, padronissimo di farlo, però la sappi usare anche, non a usarla a martello gratuita anche quando fai questo locale, ma non è il caso, te ne vai sul canale prestabilito che sappiamo e conosciamo qual è, te ne vai lì, fai combattimento, ce n'è neanche, ti diverti, niente da dire, anzi alle volte, qualche volta quando passo ascolto anche, mi fa piacere anche sentire certe radio, che quando bombarda forte Massimiliano mi arriva 9 più 25 qua, sì, che ti puoi immaginare o qua. A te arrivi 9.25, ma arrivi 9.30, va il conto. Però come hai detto tu lo sa usare, io non condivido questi che usano per fare questo locale. Disturba troppo, capito? Lui quando entra a fare questo su 10 è sempre stabile, anche se usa quella per dire, perché spesso usa il magnum e chiude tutto e lo usa normale. Invece molti lo usano a sciabita dura, capito? E quindi non fa. Soprattutto in orari diversi, in orari dove puoi disturbare, no, beh, comunque, ripeto, sono delle scelte, io non mi serve fare questa cosa, non la faccio, non me la fotti nulla. Califo! No, devi abbassare appena, abbassa. Abbasso, guarda un po', 1, 2, 3. Così già va bene, ma prima non andava bene, è troppo alto. Non abbassa ancora, eh. No, per me la puoi lasciare così, basta che non strappa, per me la puoi lasciare così. Abbassa un pochino, perché c'è una zero, aspetta, Prego, 1, 2, 3. Lascialo così che già va bene, non ti chiedi altro. Se lo metti più qua, però qua. Non va bene. Però vanno bene con i microfoni, sì. Ottimo per la truppa. Se ci sei stato rimane più carino da me. Dove ci sei stato è quello della Crio, quello tuo. I migliori sono quelli Trio, MC60, boh, io li ho provati, in cuffie noto sempre qualche differenza, io infatti ne ho uno della MC60 normale, non è l'MC60, e c'è qualcosa di, la timbrica leggermente più alta, sarà una mia impressione, vabbè, avanti giù. Probabilmente avrà la cuffia, cioè la cosa, la accidenti, Sì, vabbè, ho già mi è capito con l'impresa un po' più alta del solito rispetto a quella dell'MB4. Sì, ripeto, anche l'MB5 è un ottimo microfono, va benissimo lo stesso su queste radio, però è sempre, il discorso è sempre la timbrica della persona che lo usa. Se uno ha i toni alti e mette i toni alti anche nel microfono dell'MB5, ecco che la cosa non è che mi piace poi più di tanto. Se invece lo metti a zero il tono e magari aumenta anche il volume, questo sì è un altro discorso, e va benissimo ugualmente, e a ricicla rispecchia di più e meno come l'MB4, io non li sento così perlomeno, perché la radio forte, penetrante, alla lunga, dopo un qualsiasi stanca anche. Invece se tu ascolti una modulazione buona, bella, discorso, che non sia spaccolicchie, è più piacevole, e ti dà piacere rimanere più a lunga frequenza. Io penso così. Avanti Franco. Questa ragazza, questa è la mia più forte, l'ho adattato sul 680. Sì, no, ma sul 680 va sicuramente bene, perché vanno bene tutti i microfoni adattati, è ovvio, però ripeto, cioè, naturalmente timbrica della persona che lo usa. Ad esempio, a me mi si addice di più l'MB4, anche ascoltandomi in cuffia, non solo perché me l'ha detto Claudio, me l'hanno detto gli altri, ma ascoltandomi in cuffia mi rendo conto che la mia voce è più adatta all'MB4. Naturalmente anche l'MC60 io lo uso, perché è ovvio che lo uso, non è che posso mettere da parte un microfono da 150, 160 o 170 euro, quanto costa. Lo uso ugualmente, ci mancherebbe altro, solo che bisogna fare delle differenze quando lo uso. Ad esempio l'MB24 ci posso mettere anche la bocca sopra volendo e va bene, mentre invece con l'MC60 devo usarlo tutta la lunghezza del braccio e possibilmente di non sollevare la voce più di quant'altro, perché se no magari va in strappo. Ecco come, non è così qua? Sì, mentre invece col più 4 puoi giostrare tranquillamente, non strappa. Io non ho di questi problemi, io ho il micchigine a 1,5, processore inserito, parlo piano, però ho la timbrica più forte della tua, per quello, capito? Però non mi ha mai strappato, mai fatto un difetto. Va bene. Ottimo, poi già hai visto anche con gli altri, anche col K, col più 2, va bene lo stesso, con l'MB più 5 va bene lo stesso, quindi non ci stanno problemi. Allora avrà, cosa inconvenienti? Campagna, in campagna ti sto andando ogni tanto, perché corretta. Tanto fatto che uscire la prossima inizio. Bravo G, io mi ho già preparato la verdura, già preparato poi verso mezzogiorno e mezzo a sacco, perché poi mia figlia deve andare a lavoro, e preparo le fettine, la cosa che ci ha preparato. Mia moglie si occupa a fare pulizie, sanificare la casa, io mi occupo della cucina, capito, bra? A me piace cucinare, quindi mi occupo io. Avanti Giulio. Ok, certo, perché no? Essendo a casa uno, un colpo di mano bisogna anche darlo, ci mancherebbe altro. Tanto come fa a passare il tempo se non stando tutto il santo giorno, specialmente in questo periodo che è assolutamente quasi impossibile rimanersi dentro casa tutto il giorno senza uscire. Uno che è abituato come me o come te o come altri a uscire continuamente tutti i giorni, tutti i tantissimi giorni, pure rimanere così rinchiuso a casa per questo accidente del virus, insomma è brutto anche. E allora uno il tempo lo passa in qualsiasi modo, anche aiutando in famiglia, i fornelli, anche passando uno straccio per sfogarare, per dire un bubble, perché no, tutto bisogna fare, e a casa bisogna collaborare, ci mancherebbe altro. Avanti Franco. Anche io sto macinando qua. Vabbè, quando si può fare le cose la faccio, non è che non la faccio, noi devo stare sempre di là da pizza io. Vabbè, ma rivedere già di buonanità, c'è stato Becco e Riccardo. Io i vetri ad esempio li pulisco io, non la faccio appendere a mia moglie, le tende li raccolgo io, lei le lava, le stira. attendo io, mica era giù di va a piccare. Avanti, Ricca. Ok, ciao, ciao, ciao, ciao. Ci sono io, Giulio e Franco California. Avanti Giulio. Ok. Ciao, ciao Riccardo, ben entrato. Ben entrato Riccardo. Avanti, riprendi tu. Avanti Riccardo, riprendi. Sì, siamo io, Giulio e Franco California. Avvicinati al microfono, stai usando quello normale, avvicinati al microfono Riccardi, se no la voce è bassa, vai. Poi Fabrizio ti porterà nuovamente tutto stasera, così sei a posto. Avanti, riprendi e fai girare per Giulio. Ok, sì, fa detto che più tardi, verso l'ora di pranzo, me lo ridai, così lo riassegno. Va bene, tiri avanti Giulio. Ok, Rica. Ascolta Rica, ma cosa stai usando? Il K stai usando o il baracchino? Mi sembra che stai usando il baracchino, la segnale, perché a meno che non hai abbassato la potenza troppo del K rispetto a ieri ad esempio. No, il K ce l'ha Colt. Appunto, me ne sono accorto. Me ne sono accorto, vado a segnare Riccardi. Sì, va bene, va bene, va bene ugualmente. Arrivi bene lo stesso, 9 più 5, così a differenza dell'altro, 9 più 18, arrivi addirittura più forte di Roberto Quadrato, arrivi come segnale. Naturalmente bisogna vedere la potenza che usi tu e la potenza che usa lui, questo è ovvio. Ma poi non è un discorso molto logico, perché ogni postazione di trasmissione ha una sua potenza e un suo segnale in arrivo, per cui non si può nemmeno dire quello. Però per dirlo, per essere chiari, tu mi arrivi più forte di Roberto Quadrato, probabilmente anche a parità di potenza, perché ho sentito l'altro giorno stavi usando 20 watt tu e 20 watt lui, poi le cose non so come stanno, ma evidentemente se è stato detto è così, perché non crederci. Ti mando avanti Franco per il cammino. Ciao Riccardo, buongiorno, ben ascoltato. Però la radio la sento molto bassa, allora è Riccardo. Volevo chiederti già, quello AS Quilt, come va al centro la manopola lì? Sì, al centro. Lascia lì. Sì, ma ti arriva più forte perché è più favorevole a te Giulio Riccardo. Roberto è più coperto ai palazzi per i punti. Lui invece è più aperto per te, capito? Sulli da Finighetto è più aperto, quindi è chiaro che ti arriva più forte. No, l'ha preso Fabrizio ieri sera che deve fare due tarature, capito? Deve fare le due tarature e poi glielo ridà. Niente di particolare, così è a posto. Avanti Giulio. Sì, beh certo, no, ma me ne sono subito accorto che non era col K, ma era col baracchino. Però, sai, alle volte se tu abbassi la potenza a pochissime watt anche dal K, ti può ingannare il fatto che, perché la modulazione, ripeto, era più bassa e allo stesso tempo anche il segnale. Sì, ma beh certo, io anche l'altro giorno stavo ascoltando il QSO, il 430 è migliore del 440. È una questione di punti di vista. Io sinceramente parlando, se mi dicessero cosa vuoi, 430 o 440, io vi dico 440, tu mi dirai ma 440 ti fa quel difetto, puntini eccetera, sì, ma anche tu hai cambiato il frequenzimetro del 430, mi ricordo, e allo stesso tempo mi manca nel 430, mi manca la coda dell'antenna, che anche quello è importantissimo, perché finché lo utilizzo in AM va sempre bene, tu mi dirai, l'antenna codata, ma se voglio andare su altre bande, cosa ci vado? Senza poter avere la possibilità di accordare, devo avere l'accordatore dell'antenna separato, ecco qual è il discorso, per cui è solo questione di opinioni e punti di vista anche in quello qua. No Giulio, no, parliamo a livello CB, sono discorsi, a livello amatoriale il 430 al 440 se lo metto in tasca. come ricetrasmettitore. Poi se parli di comodità, centro memoria e accordatore, va bene, ma ai radioamatori non ne frega niente l'accordatore della radio. Noi radioamatori usiamo soprattutto accordatori esterni. L'accordatore della radio non serve a niente per un radioamatore. Radioamatore deve avere strumenti esterni per poter controllare l'andatura dell'antenna e tutto, quindi io per esempio uso la T230 sulle radio amatoriali, mica uso l'accordatore suo, è una cosa pro forma, e lo sai meglio di me, ci vuole roba. Poi se tu mi dici che il 440 ha più cose del 430, senza ombra di dubbio, ma fatelo dire da uno che è dal 1987 che usa questa radio. Il 430 al 440 come ricetrasmettitore se lo mette in tasca, molto più selettivo, molto meno rumoroso e molto molto ma molto più forte. Io ti fa anche in AM, io cambio radio, ti metto il 430 e c'è un abisso, ma sia come ricevitore che come trasmettitore, per un radioamatore, non per un CB, un CB ne può fregare di meno, dice io uso quello perché c'è l'accordatore e c'è 100 memorie e sono d'accordo con te, ma io parlo a livello amatoriale, il 430 è più cercato dai radioamatori che il 440, lascia perdere che poi sia più abbia più cose, che poi non ha niente in più, capito? Ha solo più difetti e basta. C'è l'accordatore e il 100 memorie, però c'è un abisso, te lo dico con molta molta sincerità, prove tecniche fatte, ma non solo da me, da tutti, è molto più meccanico, è un altro tipo di radio. Il ricetrasmettitore è superiore, è quello che interessa, non la comodità di avere il centro memorie o l'accordatore, solo quello c'è e basta. Perché se tu già vai a vedere i filtri, il 430 c'è il filtro NAR, alto e basso, che è una cosa spettacolare da sentire e da vedere quando stai ricevendo e trasmettendo. Il 440 c'è il selettore dei filtri che non si vede nulla. Il rumore in automatico, il rumore negli altri filtri, non cambia assolutamente niente. Il filtro NAR è un'altra cosa, è un filtro termostatato, quindi con quarti e tutto, è un'altra gubba, fatto dire da me, che ce li ho tutti e due, usati, testati e fatti. È un'altra cosa, è un altro pianeta il 430, come ricetrasmettitore parlo, non come comodità di avere quello che ti ho detto. Sì, sì, ma sono d'accordo con te, appunto, ma io stavo parlando di me, per quello che devo usare io. Io ripeto, ancora una volta preferisco il 440 proprio per effetto dell'accordatore antenna, eccetera. Poi anche in SSB, quando tu usi SSB, il filtro funziona qua, e come funziona, voglia se funziona, e alla grande anche, non poco, funziona benissimo, per cui non, anche quello non sarà come con il 430, come stai dicendo tu, non sarà adatto, o meglio sarà più adatto il 430 per l'attività radiomatoriale, ma a me personalmente che devo fare attività civistica, mi va benissimo questo, e ripeto, se mi dovessero dire quale vuoi l'uno o l'altro, io preferisco sempre il 440, proprio per le cose che ti ho detto, niente di più. Poi se parliamo di attività radiomatoriale, so benissimo che lo strumento esterno è tutta un'altra storia, certo che è un'altra storia, ci mancherebbe altro, però costa 301 euro, 350 euro anche, costa quanto la radio usata di questo livello, tutto lì, va bene, dai, comunque, ognuno ha i suoi punti di vista. Avanti Franco. Infatti, io tengo il 680, già va bene 680, non è da problemi. Adesso tutti a forte mi qua, ce l'ho aumenti. No, non so, non sono dei punti di vista, Giulio, sono delle opinioni tue per comodità e basta. I punti di vista sono che il 430 è superiore al 440. In tutto e per tutto, non ti preoccupare, che te lo sta dicendo uno che di esperienza con queste radio ne ha da vendere, assolutamente, ma poi se senti altri discorsi in altre bande è molto più cercato. Esteticamente, io ce li ho uno vicino all'altro, esteticamente non ha niente da invidiare, 430 è molto molto bello, non bello, bello. bellissimo, assolutamente. Va bene, va bene, ok. Fra il 140 e il 80 sono uguali e identici, identici sia esternamente che internamente. In più il 80 c'ha questa schedina piccolina dei 50 MHz, basta, non c'è altro. Sono due radio completamente uguali, uguali, in tutto e per tutto, internamente e esternamente. Non cambia assolutamente niente. Cambia solo che uno fa 0,30 e l'altro fa 0,50. Boh, basta, finiti i discorsi. Se tu prendi un 140, lo apri, lo metti vicino, vedi solo che c'ha una scheda in più, e boh. E solo per quella scheda in più, quando è uscito costava 500.000 lire in più, 1.000 lire in più, perché le ho comprate in lire, tutte le radio le ho comprate in lire, appena sono uscite. Quindi il 430, sa se ce l'avevo io e Marco 131, comprati tutti e due lo stesso giorno da Mario Notari e Viale Mameli, quindi abbiamo fatto di esperienza con queste radio. Va bene che va bene, ok, sì, a me non mi si è bruciato il frequenzimetro, oh, Giulio, a me mi si è spento l'ultimo decimale, praticamente anziché essere 00 era 0. E siccome mi dava fastidio, allora l'avevo detto a Fabrizio, l'aveva trovato addirittura all'estero, e me l'ha ordinato, cambiato e a posto. L'unico lavoro che io ho fatto a quella radio, per il resto non ho mai avuto un problema, mai, e poi mai. Mesi e mesi anche spenta, nel modo più assoluto. Cosa che questo cacchio di 4,40 ha anche questo problema, e lo sappiamo. Vabbè, non ho mai filtri che c'ha il 440, sono una cosa, i filtri che ha il 430 sono altri, capito? Sono termostattati, nel senso che hanno una sensibilità superiore come chiusura, insomma, come larghezza, come quando stringi all'archi. È un'altra cosa, vai, comunque, io le prove le ho fatte, te lo dico perché le ho fatte. Tu magari il 430 non l'hai mai provato, e se lo provi ti accorgi la differenza, anche in AM, non solo dell'SSB. Avanti Riccardo. Ehi, ho capito, va bene, scusatemi un attimo che sto chiamando poco e l'ho richiamato un attimo perché per non intromettermi, stavo aspettando che mi rilanciavate, lo richiamo. E quando hai finito richiamo, che siamo qua. Avanti Giulio. Ok, facciamo girare per Franco, dai, che abbiamo fatto quasi un monologo per me e te. Avanti Franco. Franco. Franco si è fatto dalla Gadria. Franco è caduto dalla sedia. Ehi, vabbè, comunque. Anda bene la testa, lo ripeto, poi il fatto che dei puntini, questo sì, adesso devo dire che questo fatto dei puntini suppongo che non si verifichi più tanto frequentemente, perché il fatto dei puntini era soprattutto quell'isolamento che c'era dentro qua, adesso è stato tolto, perché quell'isolamento, come ho detto su tanti cosi, su forum, su Roger Cap eccetera, era quello che creava il problema, soprattutto perché andava in cortocircuito la componentistica, in quanto quella specie di isolamento che avevano messo per sostenere i componenti per quando si usa in macchina, e allora per tenerli solidi avevano messo questa gettata, avevano fatto di cera o cosa, accidenti, e dopo che si seccava non era più